Radio Default, volo pindarico numero 10. Voi tutti conoscete la selvaggia tristezza che suscita rammentare il tempo felice. Esso è irrevocabilmente trascorso e ne siamo divisi in modo spietato più che da qualsiasi lontananza di luoghi. Parole di Ernst Jünger. E pochi uomini sulla faccia della terra conoscono bene la crudeltà del tempo che passa, come Francesco Guccini. A voi un altro giorno andato e incontro. E un altro giorno è andato, la sua musica ha finito, quanto tempo è ormai passato e passerà. Le orchestre di motori ne accompagnano i sospiri, l'oggi dove è andato ieri se ne andrà. Se guardi nelle tasche della sera, ritrovi le ore che conosci già, ma il riso dei minuti cambia impianto ormai, e il tempo andato non ritroverai. Giornate senza senso, come un mare senza vento, come perle di collane di tristezza. Le porte dell'estate dall'inverno son bagnate, fugge un cane come la tua giovinezza. Negli angoli di casa cerchi il mondo, nei libri e nei poeti cerchi te. Ma il tuo poeta muore e l'alba non vedrà, e dove corra il tempo chi lo sa. Nel sole dei cortili i tuoi fantasmi giovanili corron dietro a delle silvie beffeggianti. Si è spenta la fontana, si è ossidata la campana, perché adesso ridi al gioco degli amanti. Sei pronto per gettarti sulle strade, l'inutile bagaglio è dentro in te, ma temi il sole, l'acqua prima o poi cadrà, e il tempo andato non ritornerà. Professionisti acuti fra i sorrisi ed i saluti ironizzano i tuoi dubbi sulla vita. Le madri dei tuoi amori sognan trepide dottori, ti rinfacciano una crisi non chiarita. La sfera di cristallo si è offuscata e l'aquilone tuo non vola più. Nemmeno il dubbio resta nei pensieri tuoi, e il tempo passa e fermalo se puoi. Sei giorni ti han chiamato, tu hai risposto da svogliato, il sorriso degli specchi è già finito. Nei vicoli e sui muri quel buffone che tu eri è rimasto solo a pianger divertito. Nel seme al vento afferri la fortuna, al rosso saggio chiedi tuoi perché. Vorresti alzarti in cielo a urlare chi sei tu, ma il tempo passa e non ritorna più. E un altro giorno è andato, la sua musica ha finito, quanto tempo è ormai passato e passerà. Tu canti nella strada frasi a cui nessuno bada, il domani come tutto se ne andrà. Ti guardi nelle mani e stringi il vuoto, se guardi nelle tasche troverai gli spiccioli che ieri non avevi, ma il tempo andato non ritornerà, il tempo andato non ritornerà, il tempo andato non ritornerà. Correndo mi incontrò lungo le scale, quasi nulla mi sembrò cambiato in lei. La tristezza poi ci avvolse come miele, per il tempo scivolato su noi due. Il sole che calava già rosseggiava la città, già nostra e ora straniera e incredibile fredda, come un istante déjà vu, ombra della gioventù, ci circondava la nebbia, auto ferme ci guardavano in silenzio, vecchi muri proponevano nuovi eroi. 10 anni da narrare l'uno all'altro, ma le frasi rimanevano dentro in noi. Cosa fai ora? Ti ricordi? Eran belli i nostri tempi. Ti ho scritto, è un anno, mi han detto che eri ancor via. E poi la cena a casa sua, la mia nuova cortesia, stoviglie color nostalgia, e le frasi quasi fossimo due vecchi, rincorrevan solo il tempo dietro a noi. Per la prima volta vidi quegli specchi, capii i quadri soprammobili e di suoi. I nostri miti morti ormai, la scoperta di Hemingway, il sentirsi nuovi, le cose sognate ora viste, la mia America e la sua diventate nella via, la nostra città tanto triste. Carte vento volan via nella stazione, tre due luci accesi forse per noi lì, ed infine in breve la sua situazione, uguale quasi a tanti nostri film. Come in un libro scritto male, lui si era ucciso per Natale, ma il triste racconto sembrava assorbito dal buio. Povera amica che narravi 10 anni in poche frasi, ed io i miei in un solo saluto, e pensavo dondolato dal vagone, cara amica, il tempo prende, il tempo dà. Noi corriamo sempre in una direzione, ma qualsiasi senso abbia, io sa. Restano i sogni senza tempo, le impressioni di un momento, le luci nel buio di case intraviste da un treno. Siamo qualcosa che non resta, frasi vuote nella testa e il cuore di simboli pieno. Fate pure le vostre scelte, ma per ogni scelta c'è un prezzo da pagare. Ogni desiderio porta con sé una maledizione. Se scegliete una donna, la maledizione che vi colpirà sarà forse la gelosia. Se scegliete la libertà, dovrete forse scontare la solitudine. Ce lo racconta il boss. A voi Bruce Springsteen. With every wish. Old catfish in the lake, we called him Big Jim. When I was a kid, my only wish was to get my line in him. Skipped church one Sunday, rode out and threw it in my line. Jim took that hook pole and me right over the side. Went drifting down past old tires and rusty cans of beer. The angel of the lake whispered in my ear, before you choose your wish, son, you better think first. With every wish, there comes a curse. I fell in love with beautiful Doreen. She was the prettiest thing this old town ever seen. I courted her and I made her mine, but I grew jealous whenever another man come walking down the line. And my jealousy made me treat her mean and cruel. She said, "Bobby, oh Bobby, you're such a fool. Don't you know before you choose your wish, you better think first. With every wish there comes a curse. Days I sit around and laugh at many rivers I cross, but on the far banks there's always another forest where a man get lost. Well, there in the high trees love's bluebird glides, guiding us across to another river on the other side. There's someone is waiting with a look in her eyes. You know my heart's grown weary and more than a little bit shy. Tonight I'll drink from her waters to quench my thirst. Leave the angels to worry with every wish. Che venga l'apocalisse, che piombi la bomba atomica su questa città che ci condanna all'immobilità, dove i giorni silenti e grigi assomigliano tutti alla domenica. A voi Morrissey, Every Day. Thank you. La morte, l'istante in cui svaniscono le pene e restano i bei ricordi. Questo scrive Stephen King. Ma quando ami qualcuno che ti viene strappato via, la morte che bacia le labbra di un ladro. Riposa in pace, Peter Steele. A voi, Type O Negative. Everyone I love is dead. Everyone I love is dead. All that we see or seem is but a dream within a dream. Edgar Allan Poe, giunto al termine della sua vita, aveva capito che tutto è vanità. Ogni attimo, momento attenzione che dedichiamo a noi stessi, un giorno si riveleranno inutili, diventeranno null'altro che ricordi sbiaditi. Tutto ciò che vediamo o sembriamo è soltanto un sogno dentro un sogno. Ma allora, che differenza c'è tra sogno e veglia? A voi, My Bloody Valentine. When you wake, you're still in a dream. Letteratura e il miglior cinema horror sono allegorici. Con questo voglio dire che il vero orrore non sono gli omicidi né le efferatezze, ma ciò di cui essi sono espressione, cioè la polvere nascosta sotto il tappeto, gli scheletri nell'armadio, i conflitti inconsci, le psicosi, gli inferni familiari, l'incomunicabilità, l'omologazione e la disumanizzazione della società di massa. Un esempio solo per tutti, Dawn of the Dead di George Romero, 1978, grandissimo film che è una manifesta, spietata metafora della società dei consumi. Impossibile, vedendo gli zombie ridotti a larve guidate da un istinto cieco, non riconoscere in loro noi stessi e la folla amorfa che invade i McDonald's. Dalla colonna sonora di questo capolavoro, firmata dai nostri goblin all'apice della loro carriera, ascoltiamo Zombie e Zarathozom. What the hell are they? Us. We'll be right back. Vi sentite mai bloccati in uno stato di perenne attesa, incapaci di valorizzare il vostro tempo? E intanto tutti intorno si affrettano, strepitano, schizzano come trottole. Se vi sentite confinati in una sala d'attesa, allora è tempo di scattare in piedi e gridare alla riscossa. A voi fugazzi, questa è Waiting Room. Ora una nuova incursione nel magico mondo delle melodie. A contendere a Daniel Johnston lo scettro di più grande melodista della storia del rock è sicuramente Stephen Merritt con i suoi Magnetic Fields. Merritt è autore di un disco incredibile, The Charm of the Highway Strip del 1994, una sorta di sintesi suprema, una colonna sonora di 100 anni di musica pop. Il suo registro vocale grave, baritonale, vicino al crooning, si eleva a voce universale che richiama tutti i protagonisti della mitologia e della musica popolare americana, da Frank Sinatra a Elvis Presley, dai Cercatori d'Oro ai Cowboys, da Calamity Jane ad Huckleberry Finn, passando per Johnny Cash. E allora ecco a voi tutto il suo genio melodico, nei ritornelli memorabili di Born on a Train e Fear of Trains, nel synth pop saltellante di Falling in Love with the Wolf Boy, nell'incantevole fiaba di Railroad Boy e per finire nella filastrocca irresistibile di Andrew in Drag. A voi, Magnetic Fields. Ghost roads, nothing but neon signs. But some hearts, the neon turns into walking dead like me. And I've been making promises I know I'll never keep. One of these days I'm gonna be doing your sleep. I'll have to go when the whistle blows. Your whistle knows my name. Lord, Cause the world's too cold for a girl like that, with a blackfoot soul and a cowboy hat. Everything she loved went down the dragon track. She had fear of trains. It was the wagon train that took away her country. It was the oil train that took away her land. And she could have been the battle of the Ponderosa, but that was not the fat man's plan. Because the world's too cold for a girl like that, with a blackfoot soul and a cowboy hat. Everything she loved went down the dragon track. She had fear of trains. Thank you. pity she does not exist. A shame he's not a fag. The only girl I ever loved was Andrew and Drag. There is no hope of love for me. From here on I go stag. The only girl maliziosi, melodie lussuriose da striptease. No, no, non sto parlando di 9 settimane e mezza, no, ma dei Grant. A voi, sexy. I can't forget. Da Un altro giorno è andato di Francesco Guccini, a chiudere con Sexy dei Grant. Questo è stato il volo pindarico numero 10. Stay Pindaro.